tue braccia, mio Dio, e consola il lamento di noi uomini. Muovi le braccia di forza e cura, i tuoi occhi splenderanno di luce, ci dai amore e misericordia, e il tuo volto glorioso appare in questo mondo così corrotto, ma i tuoi raggi ora sono qui. Tutto questo mondo vuoto e malvagio piangerà sperando nel tuo ritorno. Tu ci porti speranza e la fine di 2000 anni di attesa. Mio Dio, e consola il lamento di noi uomini. Muovi le braccia di forza e cura, e i tuoi occhi splendono di luce. Tutto questo e malvagio piangerà sperando nel tuo ritorno. Tutto questo mondo vuoto e malvagio piangerà sperando nel tuo ritorno. Tu ci porti speranza e la fine di 2000 attesa. Di attesa. Ogni nazione nella tua luce, liberata dal controllo del malvagio, dalle tenebre saremo liberi, liberi di gridare lode a te per l'eternità. Ogni nazione nella tua luce, liberata dal controllo del malvagio, dalle tenebre saremo liberi, liberi di gridare lode a te per l'eternità. Ogni nazione e il mondo sta morendo e supplica la tua salvezza.